Una nube luminosa avvolse i discepoli, una voce diceva: questo è il mio figlio prediletto, che è tutta la mia gioia. Thank you. Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio o eredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Udita la voce, i discepoli caddero a terra, presi da grande spavento. Gesù li toccò e disse: alzatevi, non abbiate paura. Alleluia. Celebrando il Cristo che manifestò ai discepoli la sua gloria sul monte Tabor, innalziamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera. Signore, luce della luna le nostre tenebre. Cristo, che nella trasfigurazione hai preparato i discepoli all'esperienza della passione, fa che la Chiesa, purificata dalle sofferenze e dalle prove, conosca la gioia della tua vittoria. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Tutti su Monte Tabor hai voluto vicino a te Pietro, Giacomo e Giovanni. Benedici il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Guarciero. Rafforzami nella speranza della risurrezione, perché servono tutto il popolo con serenità e fortezza. Signore, risuscitati, illumina le nostre tenebre. Hai voluto accanto a te Mosè ed Elia come testimoni della trasfigurazione. Illumina il popolo dell'antica alleanza perché giunga alla pienezza della redenzione. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Tu che hai radiato sul mondo la gloria del Padre, parli i popoli camminino nella tua luce. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Cristo, che trasfigurerai il nostro corpo mortale per conformarlo al tuo corpo glorioso, configura l'immagine della tua gloria e i nostri defunti. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Cristo Signore hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti, e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Prendiamo la sera di Dio.